L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale in collaborazione con Euronet Plus, il nostro network di radio europee, per raccontare altre facce, altri punti di vista, altre attualità legate all'Unione Europea. Lo facciamo a modo nostro, ci piace entrare nel palazzo, ma ci piace anche raccontare storie in questo strano intreccio, in questa bella contaminazione che alla fine è la quotidianità europea. Potete seguirci anche sulle nostre piazze virtuali, le account sono i miei personali, Federico Taddia su Facebook, chiocciola Federico Taddia invece su Twitter, piazze virtuali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Ogni settimana un viaggio, il viaggio di oggi parte dalla Germania. Ich habe ein Herz, genau wie du. Ich heiße Yvonne und ich bin eine Kuh. L'Unione Europea è una cosa seria, tante volte abbiamo detto però che l'importante è anche non prendersi troppo sul serio. Ci sono leggi, ci sono regolamenti, sono fondamentali per la nostra vita. A volte hanno anche risvolti comici, surreali, sì, possiamo definirli anche surreali. Quello che è successo in Germania questa settimana, dove l'Unione Europea di fatto ha cancellato la parola tedesca più lunga, è una parola di 63 lettere, tre volte l'alfabeto italiano. Ammetto di non aver né tentato di pronunciarla, né ho contato quante sono le vocali e quanto sono le consonanti, perché era una impresa ardua. Però volevamo capire cosa c'era dietro intanto a questa parola, come si pronuncia e soprattutto perché è stata cancellata. Per farla abbiamo con noi un'esperta di questioni europee e di questioni tedesche. Diamo il ben ritrovato qui all'Altra Europa alla giornalista della Stampa, Tonia Mastrobuoni. Ciao Tonia. Ciao, buongiorno. Che l'ho chiamata un po' a tradimento e gli ho detto: ma tu quella parola la sai pronunciare? E lei mi ha detto: certo. E allora ho detto: guarda, convocata. Tonia, ha fatto un po' il giro del mondo questa notizia, che è un po' una sciocchezza, però fa parte poi della cultura di un popolo, no? Quindi sono quelle curiosità che raccontano anche tradizioni, usi e un po' i risvolti a volte più burocratici della nostra Unione Europea. Raccontici la storia di questa parola. Dunque, questa parola, adesso proverò a pronunciarla perché comunque è un po' faticoso, è lunghissima, appunto l'hai detto tu, 63 lettere. Dunque, la parola si pronuncia così: Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz, ed è, in realtà è una legge introdotta nel 99, vi ricordate quando c'era la mucca pazza, insomma c'era questa sindrome che insomma girava per l'Europa, faceva un sacco di vittime. Quindi i tedeschi, che sono poi molto bravi nel fare leggi anche per proteggere i consumatori, in questo hanno una grande tradizione, fecero subito una legge per cambiare le etichette dei prodotti di manzo, insomma, quindi su queste etichette devono esserci più dettagli. E questa parola, che poi è stata naturalmente accorciata, perché i tedeschi sono perfettamente consapevoli che creano queste parole, come disse una volta Mark Twain, parole tedesche talmente lunghe che hanno una prospettiva, che sono altrettanto bravi nel creare delle abbreviazioni oppure degli acronimi. Questa per esempio era in breve, aveva un acronimo lungo ma insomma che in qualche modo consentiva di far riferimento a questa legge senza pronunciarla ogni volta e fermarsi un minuto e mezzo. Certo. E l'acronimo era RKREUAUG. Quindi questo era l'acronimo per definire questa legge, che è stata abolita perché in realtà è rientrato l'allarme sulla mucca pazza, e quindi questa legge che ridefiniva le etichette per la carne di manzo è stata sostanzialmente cancellata. Uh-huh. Alcuni risvolti, allora, intanto, vabbè, questa parola non era mai entrata nel dizionario, ho studiato, perché è troppo lunga, perché è troppo giovane, perché... Sì, e poi ma chi se ne frega le leggi sulle etichette, grazie. Però quando noi eravamo, io ho fatto la scuola tedesca, quando andavamo a scuola c'era una parola che noi, almeno quella che sapevo io essere la parola più lunga in tedesco, che era una parola anche molto carina, perché è la traduzione della parola capitano di una società di barche che vanno sul Danubio. Ok. Allora, e questa parola era Donaudampfschifffahrt, che è Schiffskapitän. E noi scherzavamo molto a scuola con questa parola, perché poi se tu ci attaccavi, sai che appunto in tedesco sono queste parole composite ed è un gioco continuo, perché ne attacchi una con un genitivo e diventa ancora più lunga. Allora, il gioco era quello di attaccarci un'altra parola e che ne so, allora diventava il cappello del capitano della società di eccetera, oppure la vedova del capitano della società di barche che vanno sul Danubio, e quindi diventava Donau des Dampfschifffahrtsgesellschaftskapitäns Mütze, era per esempio il cappello, Witwe era la vedova, eccetera eccetera. Così si divertono i bambini tedeschi, insomma, abbiamo... Esatto, che tristezza. Tonia, rimani con noi, perché adesso ti portiamo ancora di fatto in Germania con un'altra storia che però ha origini, ha radici italiane. In particolare stiamo andando a Ginostra, questo angolo paradisiaco, perché anche Ginostra ha fatto il giro del mondo questa settimana grazie a Carol Hoffmann, tedesca, 60 anni, diplomata infermiera a Francoforte, vive a Ginostra da quando aveva 24 anni e in questi giorni ha scritto alla Merkel perché ha detto: Ginostra è bellissima, abbiamo però mille problemi. Il primo è quello della luce elettrica, qui il governo italiano non ci aiuta, il comune di Lipari non ci aiuta, io in quanto cittadina tedesco chiedo aiuto alla Merkel. Buongiorno Carol, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno da Ginostra. Ha risposto la Merkel? No, ancora non ha risposto, la Merkel non ha risposto, comunque certamente ho lanciato una provocazione, anche una sfida alle autorità nazionale, regionale, comunale, giustamente, per dare una spinta nella problematica di questo piccolo posto che secondo me ha un paio di problemi, ma sono tutti da risolvere. Anche questa è l'altra Europa, vivere in Italia, sentirsi cittadini europei, non sentirsi però tutelati dalle proprie istituzioni, quindi provare a bussare alle porte dell'Europa, in particolare in quelle della Merkel. Quello che ha fatto Carol Hoffmann da Ginostra. Carol, cosa significa oggi vivere a Ginostra? Significa di vivere un posto bellissimo. Io l'ho visto 36 anni fa e per me è un posto unico in Europa, perché è rimasto intatto nei secoli, nel tempo, e quindi io penso che questo può essere un posto esemplare per tutta l'Italia, ma anche per l'Europa. Già abbiamo una protezione, una valorizzazione dell'UNESCO, e quindi penso che si possano anche risolvere i problemi che sono un po' certamente quotidiani, e sono i problemi di tutta Italia, la spazzatura, la luce elettrica, energia fossile o energia rinnovabile, ma io penso che si possono veramente risolvere e dare di nuovo fiducia alla gente delle Eolie e anche agli italiani, che in questo momento, io vivendo qui come tedesca, vedo spesso che non hanno più fiducia in questo Stato. Certo, voi siete qua quattro tedeschi, vero, che vivete sull'isola? Sì, adesso siamo rimasti in quattro, ma un paio di anni fa eravamo ancora in 10. Volevo aggiungere questa idea nata sulle stradine di Lipari con un mio amico giornalista Bartolino Leone, che ha un bellissimo sito online notiziario delle Eolie, che mi ha dato questo input di invitare la Merkel per darci un mano d'aiuto, visto che lei va a Ischia, e allora abbiamo detto può visitare Ginostra e nell'occasione la presentiamo i nostri problemi. Certo. Tonia, tu che hai delle conoscenze dentro i palazzi, puoi fare qualcosa? Di no. No, però devo dire che io sono stata a Ginostra e insomma, notoriamente Ginostra, il fascino di Ginostra è proprio quello, no? Almeno per noi stupidi turisti che andiamo lì, e io quando ci andai, credo ormai 5-6 anni fa, il fascino è proprio questa, è fascino romanticissimo, quello di appunto di un'isola ancora, cioè di una parte dell'isola, perché poi appunto la Trapani di Stromboli è ancora totalmente incontaminata. Poi invece chi voleva fare, non so, la vita serale, da cose eccetera, se ne andava dall'altra parte dell'isola a Stromboli, ma il fascino di Ginostra era proprio questa super elementarità, perché tutto è, poi anche tutto è razionato, mi ricordo l'acqua è razionata, e si impara di nuovo, si impara in qualche modo a fare i conti con, però veramente chi vive là, per chi vive là deve essere molto molto diverso. Certo. Io dico il fascino di Ginostra, il motivo per cui molta gente va là, secondo me è ancora questo, è quello di una vita spartana, diciamo così. C'è un sito in tedesco per raccontare Ginostra che è www.ginostra.de, se volete appunto dare un'occhiata a questa piccola colonia germanica in Ginostra. Carol, grazie davvero, ma ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate, così ci racconti appunto se ci saranno sviluppi, va bene? Grazie mille a tutti gli ascoltatori. Ciao Carol. Tonia, noi ci salutiamo, ci pronunci un'altra volta la parola così, ma per fare un piccolo ripasso, Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Ma la leggi o la sei a memoria? No, la leggo. Okay, no, dico quella del capitano, quella è la memoria. Sì, vai col capitano, un'altra volta col capitano. Il cappello. Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänsmütze. Ottimo, ciao Tonia, grazie come sempre. Tonia Mastrobuoni della Stampa, con la quale abbiamo giocato, e continuiamo a parlare di Europa in questo anno della cittadinanza, in questo anno dove il concetto di Europa si cerca di portarlo ovunque. Noi ogni settimana cerchiamo qualche nuova suggestione, oggi la andiamo a cercare dalla musica, la andiamo a cercare con un gruppo che sono i Negramaro, sono appena rientrati da una tappa importante dalla loro tournée internazionale a Varsavia, e qua con noi c'è Giuliano. Ciao Giuliano. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Appena rientrato da Varsavia, un grande successo, sì. Vero? Ma è stato fantastico, devo dire che è stato un impatto fantastico. Si chiama Impact Festival, tra l'altro il festival a cui abbiamo preso parte, ed è stato veramente incredibile l'approccio con il pubblico polacco. Ci hanno accolto in una maniera strepitosa. Ora sto per usare troppi aggettivi assoluti, ma è veramente, come dire, è stato bellissimo, perché comunque non ci si aspetta mai un'accoglienza così calorosa, e quindi ogni volta che ci si sposta fuori dall'Italia è bello che qualcuno ti riconosca tutta questa bellezza da condividere, no? Ma qual è il timore vero quando si va oltre confine? Perché vabbè, uno potrebbe dire è un concerto come tutti gli altri, invece c'è qualcosa di diverso. Innanzitutto non è timore, trattandosi di musica non c'è paura, c'è soltanto, come dire, la voglia di dare di più a chi sta di fronte, e soprattutto in contesti come festival europei importanti come quello di Varsavia, o comunque come quello che andremo a fare il 30 giugno a Londra, all'Hard Rock Calling insieme a Kasabian, Bruce Springsteen, insomma non c'è paura, ma c'è soltanto una bellissima tensione di potersi confrontare con artisti internazionali di questo calibro. Per noi in questi festival così importanti in Europa è la prima volta, per cui allontanando qualsiasi paura, perché assolutamente non c'è una paura quando si tratta di musica o arte in genere, cerchiamo di avere una tensione costruttiva per quello che è l'evento. I festival sono importantissimi, i festival europei sono bellissimi proprio perché ti danno la possibilità di un confronto fertile e costruttivo. In qualche modo si torna sempre con qualcosa in più nel bagaglio culturale di ognuno di noi. Certo. Torniamo con un sorriso stampato in faccia come non mai, perché comunque noi andiamo in Europa, quello che ci spinge ad andare in Europa è sicuramente la voglia di ricominciare, no? Perché come sai il 13 luglio faremo San Siro, il 16 luglio faremo l'Olimpico a Roma, sono due eventi giganteschi per l'Italia, sì, ma soprattutto per noi, visto che si ritorna a San Siro, ma è la prima volta ad esempio all'Olimpico di Roma. Sono degli eventi incredibilmente giganti per noi, e abbiamo quasi il desiderio ogni volta, prima che arrivino questi grandi eventi, di fare un giro in Europa per poter ritornare indietro, no? Quasi nel tempo, nel senso che ci permette di di fare qualcosa che si possa costruire lentamente, come all'inizio della nostra carriera in Italia. Ed è questo, quel confronto che ci spinge ad andare in Europa, a portare la nostra musica e a fare i conti quasi con noi stessi, riportati. È un passo indietro nel futuro, non so come dire. No, ma rende molto l'idea, no? Perché... Sì, è un passo indietro, per noi l'Europa è un passo indietro nel futuro, cioè torniamo indietro su noi stessi, sulla nostra storia, ma con avanti un futuro bellissimo, che è quello di un'Europa straordinaria, in questo senso, a livello artistico soprattutto. Ecco Giuliano, ma a te la parola Europa cosa suscita? Tu ci credi? Ci credi nella possibilità io ci credo, a prescindere da tutti i problemi che ci possono essere monetari, critici e di qualsiasi altro tipo. Credo che riconoscersi sotto una parola magica, che sia Europa o Pinco Pallino, riconoscersi in tanti milioni di persone, milioni e milioni, credo che sia bellissimo, persone di culture diverse che si possano... io credo nel mondo, no? Quindi se potessi credere in una parola magica, proprio che in una bandiera unica che fosse quella del mondo, sarebbe ancora più bello. Mantenendo quelle che sono certamente le nostre culture, mantenendo quella che è la nostra cultura, che poi da condividere, no? Da trasferire agli altri con molta eleganza, quasi timidezza, in punta di piedi, rispettosa anche delle culture altrui. Certo. Ecco anche il motivo per cui, ad esempio, ora torno nel locale, non mi piace che ci sia l'idea di una regione Salento, no? Mm-hmm. Mi piace più che si vada verso un mondo aperto che verso la costruzione di province, delle province, delle province, delle province. Non ne vedo l'utilità. Io mi sento cittadino del mondo, ma non è una frase fatta. Io mi sento bene ovunque, mi sento a casa ovunque, perché ovunque ho da imparare. In una casa, la casa per me è quel posto in cui si impara a vivere meglio, no? Mm-hmm. Quindi credo che il mondo debba avere veramente una bandiera e sarebbe bello riconoscersi veramente oggigiorno, quasi senza essere troppo così onirici o utopistici, riconoscersi in un'unica bandiera sarebbe fantastico, rispettando le diversità. Ed è vero che insomma i festival sono una metafora bellissima di quello che potrebbe essere l'Europa unita, no? Perché tante differenze, ma che tanto incrocio, incontro, un linguaggio comune, che alla fine è questa, e con la musica viene anche facile. Però è veramente un'immagine, quella del festival, che dovrebbe essere presa ad esempio per quello che potrebbe essere culturalmente l'Europa unita. Vi faccio un esempio pratico. Ieri eravamo in camerino dopo che abbiamo suonato, abbiamo fatto tantissime foto con ragazzi polacchi, c'era il fan club polacco di Casa 69 Warsaw, no? Che per noi è stato, in prima fila vedevamo questo striscione, eravamo sicuri fossero italiani, invece poi a un certo punto ballavano tutti e cantavano tutti, quindi ho fatto la conta degli italiani, perché qualcosa non tornava, no? Ed erano 5 gli italiani in tutto il pubblico, quindi è stato bellissimo che tutti gli altri fossero polacchi ed erano presi benissimo. Ti racconto questo piccolo aneddoto per dirti quanto è condivisione, quanto è simbolo di un'Europa unita, quanto è simbolo di un posto in cui non si senta neanche la differenza di linguaggio, no? La musica o un festival più concretamente. Cioè, noi eravamo in camerino ed è arrivato l'ex bassista di Metallica, che ora ha un gruppo in cui canta, sì. E lui è venuto a farci i complimenti per l'esibizione in camerino, è stato 2 ore a parlarci di quello che aveva sentito, di quello che aveva provato sentendoci cantare in italiano, cioè che comunque secondo lui aveva sentito gli argomenti di cui parlavamo. E infatti è questa è la bellezza della musica, cioè è un linguaggio così universale, perché tutti mi chiedevano, poi nelle interviste ieri ne avrò fatte 50 interviste in inglese, mi chiedevano perché se avevamo paura di portare avanti ancora l'italiano o il motivo per cui portavamo avanti l'italiano. Io ho risposto questo, nel senso che la musica è un linguaggio così universale che, se davvero lo è, non hai quasi le parole, diventano il loro suono, no? Certo. Tant'è vero che mi ricordo, io ho questa immagine, questo ricordo ben fisso nella mente, che riguarda appunto l'inizio della musica per me. Cioè, io quando ero piccolo ho amato i Radiohead, ho amato gli U2, ho amato Bob Marley, ho amato qualsiasi cantante da quando ero piccolissimo, quindi avevo 6-7 anni e poco capivo dell'inglese, però ti assicuro che quando Tom York cantava Creep, il senso di quella parola mi arrivava tutto. Ora senza sapere il significato, no? Cioè voglio dire, quando la musica è così universale e soprattutto le liriche di quelle canzoni che sono diventate storiche poi nel mondo sono così universali, è perché hanno un suono che ti proietta verso quasi il senso sicuramente e il significato della canzone stessa. Quindi ci credo molto che le parole, anche soltanto nel suono, possano portarti verso un mondo parallelo incredibile, e quindi ti in qualche modo qualsiasi linguaggio si possa usare, se aiutato dall'universalità del suono e della musica, ci si unisce in una stretta incredibile. L'arte è bella per questo, i festival sono assolutamente un simbolo di condivisione totale e anche umana, perché si portano in scena le gambe, i corpi, la propria vocalità, la propria fisicità, quindi è fantastico. Ricordiamo allora il 13 luglio a San Siro, il 16 luglio all'Olimpico a Roma e poi dopo il 30 giugno invece questa tappa londinese, anche qui un'esibizione in un luogo prestigiosissimo. Grazie davvero a Giuliano, speriamo che anche la storia dell'Europa un giorno possa essere ricordata come una storia semplice, perché le storie semplici sono quelle più vere, quelle più belle. Esatto. Se pensiamo alla musica speriamo di sì. Ciao Giuliano, grazie. Grazie a te, ciao Federico, ciao a tutti. Ho visto andare tutto in fiamme, la nostra storia è quel che c'è, tu li ferma sulle gambe, continui a chiedermi perché questa non è una storia facile, e chi racconta di bugie spalmate sulle poche asciutte. Vi ricordo che l'intervista a Giuliano sarà riascoltabile sul nostro sito radio24.it, ma vi ricordo anche che sempre su radio24.it mercoledì prossimo alle 11 ci sarà l'Edicola Fiore Live e anche Giuliano sarà uno degli ospiti, quindi insomma seguiteci sul nostro sito, continuamente aggiornato, continuamente appunto arricchito dai contributi di Radio 24. Noi continuiamo a raccontarvi l'Europa, lo facciamo con una chiacchierata che abbiamo fatto insieme alla commissaria Hedegaard, la responsabile dell'azione per il clima, è stata protagonista venerdì di questo incontro, la sesta tappa in Italia di dialogo con i cittadini, un'iniziativa che sta accompagnando gli italiani verso lungo questo 2013, anno della cittadinanza, che è una premessa poi a quello che succederà nel 2014, quando ci si avvierà verso le elezioni europee. In questa sesta tappa era lei ospite, lei ha fatto una lunga chiacchierata, un lungo incontro con i cittadini, era lei e 200 cittadini come voi che hanno avuto la possibilità di fare le domande, porre questioni, dare suggerimenti, fare critiche, una bella mattinata con lo spirito giusto, con lo spirito costruttivo. E il collaboratore di Radio 24, Angelo Miotto, ha avuto poi l'occasione di intervistarla e questo è quello che ha detto. La prima domanda è appunto ricordare in sintesi, se possibile, il motivo di questo, la sua visita a Milano, il lancio di questa campagna, che mi pare capire sia una campagna soprattutto di alleanza industria, moda, cittadini. Well, the whole purpose is to show the solutions are there. L'obiettivo è dimostrare che le soluzioni esistono già. Di solito ai cittadini il discorso del cambiamento climatico appare molto distante, difficile da capire e soprattutto da affrontare. In realtà l'obiettivo è quello di presentare delle soluzioni concrete, dividendo il problema in tante piccole soluzioni che in gran parte già esistono e che, se fossero applicate, comporterebbero soltanto vantaggi. Pensando al caso di Milano, l'utilizzo di una mobilità più efficiente da un punto di vista energetico ha comportato non soltanto un miglioramento delle infrastrutture, ma anche della qualità dell'aria. Il fatto, per esempio, che si sia fatto ricorso al bike sharing, all'incremento cioè dell'uso delle due ruote, ha portato miglioramenti anche alla rumorosità generale. Ci sono tutta una serie di co-benefit, di benefici multipli, che derivano da queste azioni cosiddette climate friendly, ovvero amiche del clima. Ecco, in questa campagna voi incontrate molti cittadini e quindi volevo chiedere quali sono le reazioni che le incontra, come si trova a parlare direttamente con delle persone che molto spesso non hanno una grande conoscenza di quello che è l'istituzione europea. I think it's always extremely inspiring. Parlare con la gente è sempre fonte di grande ispirazione. Esco ora da un incontro con i cittadini di Milano, che si è tenuto non lontano da qui, e ho trovato i loro input molto interessanti. I cittadini riflettono e hanno degli interessi personali rispetto a queste tematiche, ma soprattutto, come ho già detto, i cittadini non sono stupidi e sanno benissimo che esportando il modello di vita occidentale in altri paesi, la situazione rischia di non essere sostenibile. Perciò sono pienamente coscienti del problema e riescono a fornire soluzioni molto forti dal punto di vista dell'ispirazione. Ma restiamo sui cittadini, perché molto spesso le questioni poi che riguardano i negoziati anche internazionali sul cambio climatico sono questioni appunto complesse e che hanno bisogno di diverse spiegazioni per chi non è abituato al grande gioco della politica fra stati. In questo senso, noi sappiamo del suo grande impegno anche in passato, vorrei sapere come potrebbe spiegare quali potrebbero essere i prossimi passi in un negoziato internazionale per quanto riguarda i temi del cambiamento climatico. I would say that what we are basically trying to do in the international negotiations. Direi che stiamo cercando di trovare degli orientamenti e delle soluzioni sostenibili che possano applicarsi a tutti, non soltanto ai paesi di tradizionale industrializzazione, ma anche alla Cina e agli altri paesi emergenti. Soluzioni e orientamenti che evolvano verso una migliore efficienza energetica e nell'uso delle risorse. E poi, proprio come è intenzione fare qui, cercherei di riportare tutto il discorso a dati concreti di vita quotidiana che abbiano senso, rispetto ai quali le persone possano relazionare. Parlerei loro di come acquistando un indumento, un televisore, un elettrodomestico qualsiasi possano cambiare le cose. Per quanto riguarda gli elettrodomestici, per esempio, scegliendo prodotti con l'etichetta sui livelli di consumi energetici. Naturalmente raccontando loro che queste pratiche hanno un impatto. Pensiamo ai milioni di cittadini europei. Se tutti quanti agissero in questo modo, sicuramente le cose evolverebbero in una direzione ben precisa, che costituirebbe un segnale per i produttori, come a dire loro: ok, siamo disponibili ad acquistare di nuovo, ma ad acquistare verde. Give us some innovative green solutions and we will buy them. E l'ultima domanda allora è proprio rispetto ai politici. I politici hanno la responsabilità delle azioni e anche di promuovere la comunicazione. Però la domanda è sul meccanismo. Secondo lei a che punto siamo dal punto di vista dell'azione europea rispetto all'egoismo molto spesso dei singoli stati membri? You're right, what we can do at the European level is to put up the targets, the binding targets, getting the pricing systems right. Ha pienamente ragione. A livello europeo abbiamo la possibilità di inscrivere nella nostra legislazione, nelle nostre politiche, degli obiettivi vincolanti e delle normative, ma tutto questo effettivamente può essere vanificato senza un adeguato recepimento da parte dei singoli Stati membri. Ecco perché dico che tutti abbiamo responsabilità rispetto al recepimento delle grandi direttive e dei grandi orientamenti europei. Ha responsabilità a livello europeo come quello nazionale, come quello regionale, come quello municipale, ma anche individuale. Ciascuno di noi ha una sua propria responsabilità. Sono d'accordo con lei. La sfida maggiore è proprio quella di fare in modo che queste legislazioni che noi promulghiamo vengano recepite a livello dei singoli Stati membri. Su questo poniamo molta attenzione anche per quel che riguarda l'Italia. Buon lavoro allora. Grazie a lei. We are a flexible and innovative species, and we have the capacity to adapt and modify our behavior. Now, we most certainly have to do so if we're to deal with climate change. It's the biggest challenge we have yet faced. The same thing that keeps the earth warm. Un video musicale per spiegare il cambiamento climatico. Per capire cos'è il cambiamento climatico, ahimè, basta vedere quello che è successo in questi giorni in Europa, un'Europa sconvolta dalle alluvioni di cambiamento climatico. Abbiamo parlato con la commissaria Hedegaard. Il cambiamento climatico è anche il cuore di un progetto che è stato premiato, l'unico progetto italiano premiato al Best of the Best tra i progetti di Life Plus della Commissione Europea durante la Green Week di questa settimana, un progetto che si chiama Trust. Per capire di cosa si tratta e perché è stato premiato appunto come un progetto, una buona pratica, abbiamo con noi l'ingegnere Francesco Baruffi, che è coordinatore del progetto Trust dell'autorità di bacino dei fiumi Zonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta, Bacchiglione. Buongiorno Baruffi. Buongiorno a lei. Che cos'è il progetto Trust e come mai è stato premiato? Qual è stata l'intuizione che avete avuto? Ma sostanzialmente questo progetto si era posto l'obiettivo di come poter dare una risposta ai possibili effetti appunto sui cambiamenti climatici, no? Quindi è rivolto sostanzialmente alla gestione delle risorse idriche sotterranee e capire quali azioni si potevano valutare, porre in essere, come prepararsi a questo eventuale effetto sui cambiamenti climatici. Questo era il perno, è stato il perno del progetto. E lo sviluppo del progetto è stato molto tecnico e con attività di campo, quindi supportato sia dall'analisi teorica del problema e dello sviluppo degli strumenti, sia avuto appunto delle attività, delle applicazioni, e quindi abbiamo potuto supportare le valutazioni di natura generale, teorica, con poi l'esame proprio pratico per capirne quanto praticabile era questo tipo di soluzioni, certo, che in qualche modo era stata vista. Tra i 17 progetti partiti nel 2011, appunto, è stato premiato dalla Commissione europea, è un progetto italianissimo ma replicabile anche in altre situazioni? Sì, direi di sì. Ci tengo molto, sono molto contento che lei abbia sottolineato il progetto italianissimo, infatti i partner sono tutti partner italiani, cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente, la società SG Studio Galli di Padova, che è una grossa società di ingegneria che lavora nel campo ambientale molto su scala internazionale, e il Centro Mediterraneo per i cambiamenti climatici. Queste tutte strutture italiane che hanno potuto mettere insieme una serie di elementi conoscitivi che credo ci metta nella condizione anche di trasferire questo know-how che è stato posto in essere. Trasferibile, la risposta è sì, secondo noi sì, perché è un'esperienza insomma che in qualche modo è stata anche testata sul campo e quindi che ha una sua possibile espandibilità nell'ambito di un territorio molto più generale. Che cos'è che in sostanza si è fatto? È quello di aver valutato come utilizzare, uso un termine forse che magari non vorrei forse malinterpretare, i cascami, cioè dell'acqua, o meglio utilizzare l'acqua che in qualche modo è disponibile anche in momenti non di scarsità ma di ridondanza, sì, e poter alimentare attraverso l'infiltrazione la falda sotterranea, quindi il cosiddetto water banking, no? Quindi mettere in banca, mettere da qualche parte, immagazzinare quest'acqua che giustamente deve andare al mare, però una parte si può anche trattenere in modo tale che nei momenti di crisi, nei momenti in cui si potrebbe manifestare la necessità, tu hai a disposizione nella tua banca una certa quantità. E chiaramente, come sarà noto a tutti, il conflitto nell'uso dell'acqua sarà una delle questioni che si porrà senza dubbio anche in modo più evidente nell'immediato prossimo futuro. L'acqua non è più una risorsa ridondante, ma va considerata ormai una risorsa da considerare non rara, ma in una condizione di grande attenzione. Grazie a Vengene. Ricordiamo il sito del progetto, che è lifetrust.it, il sito invece del programma è ic.europa.eu/life. Grazie Brufi, complimenti a lei e a tutto il team. Grazie, arrivederci a lei. Eccoci qui ancora con l'altra Europa. Chiudiamo la puntata cavalcando una domanda che in tanti si fanno, cioè ce la fanno tantissime, ed è: a cosa serve l'Europa? Ma cosa sono tutti questi soldi spesi anche lì? Perché non tagliare uffici, organismi, istituzioni? Invece vogliamo raccontarvi una storia che secondo noi è virtuosa, è una storia che parte da lontano, parte dal 1994, quando la Regione Emilia-Romagna è stata la prima a istituire un proprio ufficio a Bruxelles. Ok, voi in questo momento state dicendo: vabbè, altri soldi spesi, affitti, personale, eccetera, eccetera. E invece no, perché essere presenti a Bruxelles vuol dire poi avere delle ricadute concrete in Italia. Tanto che ieri o ieri l'altro, adesso la data esatta non lo so, è stata inaugurata la nuova sede della Regione Emilia-Romagna a Bruxelles, una nuova sede che non vuol dire solo un nuovo locale, ma vuol dire un nuovo modo di agire, un nuovo modo di concepire anche quello che è il recepimento dei fondi strutturali che poi tornano in regione, che vuol dire che tornano nelle proprie comunità, un modo di agire che sia strutturato, che sia organizzato, che sia efficiente, che sia anche interattivo, nel senso che sia uno sportello veramente diretto, veramente aperto ai cittadini. Questo è quello che dovrebbe fare secondo noi qualsiasi regione. L'Emilia Romagna lo ha fatto e quindi volevamo raccontarvi questa storia che secondo noi ha degli aspetti virtuosi. Lo facciamo con Simonetta Salliera, che è vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. Buongiorno Salliera. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Un'inaugurazione che va al di là di un taglio del nastro, ovvero un modo nuovo di concepire la presenza di una regione a Bruxelles, quindi nel cuore d'Europa. Sì, anche perché forse non valeva nemmeno la pena di tagliare il nastro, perché sostanzialmente noi siamo lì, come ha già detto, dal 94, però eravamo come adesso ospiti e paghiamo l'affitto alla regione Assia, perché abbiamo sempre fatto la scelta di convivere insieme ad altre regioni, quindi come noi anche l'Aquitaine francese e una regione polacca conviviamo negli edifici, in questo caso nell'edificio di proprietà Assia. Quindi l'inaugurazione era molto semplice, di grande valore per l'Assia, perché ha fatto questo investimento di un palazzo proprio vicino al Parlamento. E noi come inquilini abbiamo mantenuto le stesse spese che avevamo prima in affitto, che siamo ancora in affitto, però un locale molto più razionale, cioè con gli stessi spazi riusciamo a fare molto di più, cioè a stare un po' meglio, ecco. Certo. E poi soprattutto è a norma, sicurezza, quello precedente, un portatore denti, non ci sarebbe mai riuscito ad entrare, ad esempio, piccole cose, però sono importanti. Piccole cose, grandi numeri, leggevo che i fondi strutturali destinati all'Emilia Romagna, adesso stiamo trattando il caso Emilia Romagna perché appunto c'è stata l'inaugurazione, sì. Però ci sembra veramente anche un modo di agire che possa essere pilota per altre ragioni. Dell'Emilia Romagna, per il periodo di programmazione 2007-2013 sono stati circa 1.153 milioni. Questi sono soldi che arrivano di fatto ai cittadini tramite servizi, tramite progetti, tramite innovazione. Certo, certo. Guardi, noi spendiamo all'anno per stare a Bruxelles non più di 800.000 euro, compreso l'affitto, compreso tutto, e anche gli 8 dipendenti che abbiamo lì, a fronte di fondi strutturali, appunto, come ha detto, di 1.153 milioni. Ma vorrei sottolineare che l'Emilia Romagna l'anno scorso in maggio ha avuto una grandissima disgrazia, che è il terremoto, con delle ricadute pesantissime. Sappiamo sia bene, sul PIL, certo, che sulle famiglie, e comunque attraverso il lavoro fatto a Bruxelles di relazioni e di progettualità coerente siamo stata l'unica regione a portare a casa, e tante altre hanno avuto disgrazie in questi anni, più di 500 milioni. Per l'esattezza 550, al momento ne dovrebbero essere più di 600, quindi già liquidati 550. Salliera, ma se un cittadino, se un'associazione, se una società volesse informazioni precise sul come arrivare ai fondi europei, si può rivolgere anche direttamente all'ufficio di Bruxelles tramite… Certo, sì, abbiamo l'ufficio, sì, certo, le 8 persone sono singolarmente specializzate per ogni settore, chi per le attività produttive, chi per il sociale, chi per la cooperazione, chi per l'agricoltura, la forestazione, l'ambiente, e quindi un'azienda, un'associazione, chi vuole informazioni, ragazzi che vogliono attraverso l'università fare degli stage, ogni tanto riusciamo anche ad ospitarne, in modo che possano star lì un periodo per la loro formazione. E soprattutto l'ufficio ci serve tantissimo per le relazioni, sia nel rapporto con il Parlamento, nella formazione delle leggi, la cosiddetta fase ascendente, sì, perché riusciamo anche noi a dare dall'Italia attraverso il nostro ufficio il nostro contributo sulle norme, nella formazione di una legge, di un regolamento. E l'altro aspetto invece nelle relazioni, già nella casa tedesca, diciamo così, ma che è una casa insieme alla Francia e alla Polonia, facciamo già rete nel presentare progetti, perché sì. La risorsa fondamentale per riuscire a ottenere soldi è quella di presentare progetti sempre in una relazione ampia fra diverse regioni di diversi paesi. Mm-hmm. E quindi, ad esempio, questo è solo un esempio, stiamo investendo molto sul futuro in termini di relazioni anche sul bacino sud-est adriatico, ma che vuol dire l'area dell'Adriatico insieme all'area danubiana. Certo, insomma, bisogna lavorare ovviamente per fortuna, insomma, con visioni anche geografiche allargate. Ricordiamo il sito molto che è spazieuropa.it/ufficio Bruxelles. Ringraziamo Simonetta Saliera, vicepresidente Regione Emilia Romagna, e buon lavoro. Ringrazio voi, buon lavoro e sempre a disposizione. Grazie, grazie molte. Grazie. E questo grazie va a tutti quelli che sono stati in nostra compagnia, quindi voi ascoltatori, un grazie alla squadra dell'Altra Europa, Miriam Lucchetti, oggi anche in assistenza, che con me ha scritto la puntata insieme a Margherita Aina, Carmelo Lauricella oggi alla parte tecnica. Radio24.it è il nostro sito da dove potrete riascoltare la puntata, trovare le singole interviste e interagire anche con noi. L'Altra Europa @radio24.it è la nostra mail. Ancora grazie, ancora buon sabato da Federico Taddia. Ciao! L'Altra Europa in collaborazione con Euronet Plus.